Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Grave perforazione del colon causata dal getto violento di aria con un compressore e possibili lesioni di organi interni. È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di questo ospedale, il San Paolo del quartiere di Fuorigrotta, un ragazzo di 14 anni. Il fatto è successo a Pianura, quartiere difficile dell'area occidentale di Napoli. A picchiare, denudare e seviziare il 14enne sarebbero stati tre ragazzi di 24 anni con piccoli precedenti penali. La colpa del povero 14enne? Essere un po' cicciottello, tanto da disturbare la vista dei tre balordi che già in passato lo avrebbero più volte aggredito e pesantemente insultato. Ieri i tre dagli insulti sarebbero passati alle vie di fatto, riducendo il 14enne in fin di vita. L'autore materiale del getto di aria che ha perforato il colon del 14enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Gli altri due balordi, quelli che hanno denudato e bloccato il 14enne, sono stati invece accusati a... È una storia di balordi, è qualcosa che ha in sé un'accezione particolare, è qualcosa che merita un'attenzione profonda delle cronache, perché è un caso emblematico di una deriva nel nostro paese. È una storia tristissima, uno scherzaccio schifoso da officina, vecchio come è vecchia la storia della meccanizzazione nel mondo, ha creato l'ennesima vittima. Un ragazzo che probabilmente era preso di mira da tre delinquenti, ha subito per l'ennesima volta quello che è il più facile incidente schifoso può accadere in un'officina. Io ho 60 anni, io ricordo un'infinità di volte che nella mia Umbria accadeva che c'era un gommista, un addetto alle pompe di benzina, un meccanico. Io ho fatto un piccolo excursus nelle cronache degli ultimi anni, vedo che abbastanza frequentemente è accaduto qualcosa del genere. A Troina è successa la cosa del genere nel 2010, dove un ragazzo pure subito dei danni irreversibili. Sì, perché il compressore sembra un giocattolo, ma pensate che è una macchinetta capace di gonfiare la ruota di un camion. Immaginate nella fragilità dell'intestino di un essere umano, anche se solo appoggiato a distanza, anche se non c'è stato un atto di vera e propria effrazione della persona umana, quello che può creare. Vorrei capire se trovate delle fattispecie particolari in questa storia, trovate dei motivi di riflessione, perché oggi è l'argomento del giorno. Ma quello su cui vorrei riflettere non è tanto nell'atto in sé, nemmeno dell'altitudine dove è accaduto, perché fra le notizie che ho stampato vi posso dire che a Trento nel 2011 hanno fatto lo stesso gioco con un ragazzo, altri ragazzacci, in questo caso hanno usato un bastone. In provincia di Genova nel 2010 addirittura padre e madre lo facevano al figlio di 10 anni dopo averlo ammazzato. Manettato. Quindi esiste questa sorta di perversa crudeltà sadica di violentare un essere umano con degli oggetti. Ma vorrei entrare nello specifico di quello che ho visto su vari siti qualche ora fa e che mi ha particolarmente fatto riflettere. La difesa dei genitori della persona che avrebbe compiuto quest'atto. Non voglio entrare in merito al come, al dove, al quando, è il compito degli inquirenti. Ma il cuore di mamma, la difesa immediata, strappalacrime, decisa, senza sé, senza ma, di una madre che dice hanno voluto fare solo uno scherzo a un figlio che ha fatto esplodere l'intestino a un altro ragazzo, mi fa riflettere su quanto le madri in tutto questo poi possano avere una responsabilità. C'è anche il video sul telefonino, dopo mio genere ha preso questo compressore e l'ha buttato in via, ma per scherzo, perché non sa cosa era il compressore, loro che lavorano nella madre sapevano bene a cosa andava l'impute se mio genere prendeva questa cosa. Allora è stato uno scherzo, non lo deve pagare, lo deve pagare, ma non con violenza, non è stato con violenza, e nemmeno con malizia, giusto? È stato un gioco. È stato un gioco e basta. Non che abbiamo messo in stato omicidio. E se la bracchiacci destro, veramente. E se la bracchiacci destro. No, ma questo voglio, non hanno andato a Stambulo. È stato soltanto un gioco, dice la madre di uno dei ragazzi implicati in questa storia. Poi l'età media degli altri era sui 24 anni, non erano proprio bambini, erano uomini. Uomini che hanno deciso di compiere un atto di violenza, di sopraffazione e comunque di schifosa vessazione nei confronti di un ragazzo che aveva il demerito, secondo loro, di essere lievemente sovrappeso. Ma trovo sia trascurabile, se non fosse stato sovrappeso avrebbe avuto gli occhiali, sarebbe stato stato un secchione. Se non avesse avuto gli occhiali sarebbe stato un ragazzo un po' timido. Se non fosse stato un ragazzo un po' timido sarebbe stato accusato di essere gay. Avrebbe sempre avuto comunque qualcosa in sé, come accade nelle vecchie parabole del lupo e dell'agnello, che il branco dei lupi ce l'ha con l'agnello in ogni maniera e deve affermare il proprio essere lupo facendo qualcosa di molto particolare, non casuale. Quando gli uomini simulano quella che è una violenza di tipo sessuale nei confronti degli altri uomini, è qualcosa di antichissimo che affonda le radici nel diritto del vincitore di umiliare il vinto. 800240024, come la pensate di questo episodio? Questo l'hanno infamato comunque, e non è giusto. Anche quelli che hanno scritto i giornali, è impazzito. Voglio vedere questa violenza dove sta, io lo voglio capire. I branchi stanno lavorando nel lavaggio, nel lavaggio dove è successo questo punto di sopra. Mio figlio è un bravo ragazzo, è un bravissimo ragazzo. E poi mio figlio l'ha accompagnato all'ospedale. Stanno abbassando e fanno, non è vero, ci sono i testimoni e non è vero. Non possiamo infamare un ragazzo che è un bravo ragazzo, hanno sbagliato a fare quel gioco. Questa è la famiglia del ragazzo che è andato sotto casa dell'altro ragazzo, quello che ha subito, hanno inscenato una sorta di protesta, è dovuta intervenire la polizia, poi tutto è stato ripreso e tutto è in rete naturalmente. I genitori lo difendono, cioè lui è incolpevole, non sapeva quello che facevano i più grandi, stava al lavaggio, quindi non conosceva l'uso dirompente del compressore. Poi gli ha fatto soltanto il video col telefonino. Questo come accadde, ricordate, una scuola bene di Genova un anno fa, ne parlai. Avevano dato il ministero a quella scuola modello dei tablet perché potessero fare una sorta di apprendimento digitale. I bravi ragazzi di questa scuola hanno usato i tablet per filmare un atto di bullismo nei confronti di un disabile. Poi erano tutti innocenti. Le madri hanno detto che era troppo crudele la punizione che aveva inflitto il preside a questi ragazzi, di doversi occupare comunque di sociale, aveva dato loro dei compiti per far capire loro cos'era, fosse la realtà, cioè troppo crudele, in fondo cosa hanno fatto di male, mentre quelli picchiavano i nostri ragazzi si limitavano a filmare. Chi filma è complice come di chi compie un fatto, chi traccia memoria epica di un fatto scellerato è altrettanto complice come se compisse lui l'atto in sé. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Io vorrei mettere in parallelo le violenze che vengono giornalmente, che avvengono giornalmente nella nostra società, di tutti i tipi, compresa quella di ieri, con le violenze delle quali rimaniamo, diciamo, esterrefatti, come quelle delle decapitazioni dell'ISIS. Mi duole questa cosa, mi dà da pensare, nel senso che dovremmo essere molto più abituati a gestire queste cose in maniera perché vuoi capire bene, perché mi interessa. Lei dice esisterebbe nell'essere umano una sorta di retroterra sadico e violento, per cui non dobbiamo meravigliarci se accadono queste cose. Esatto, esattamente, non dobbiamo meravigliarci, dei comportamenti delle famiglie per le quali come si dice, figlio, ogni scarafone è bello a mamma sua, e quindi vengono sempre difesi anziché essere per primi condannati dalle famiglie. C'è una lieve differenza: l'ISIS sta inscenando una sorta di format televisivo per terrorizzare l'Occidente, per loro tagliare la testa equivale per il nostro bombardare e uccidere delle persone, lo fanno perché sanno che questo a noi atterrisce. I ragazzacci di tutta Italia che compiono questi gesti ripetono un antichissimo rituale. Adesso non c'è più il servizio militare obbligatorio, ma mi creda, anche nelle caserme di alpini del nord Italia era facile ogni tanto trovare un ragazzo con un manico di picozza infilato da qualche parte perché faceva parte del nonnismo, era giustificato in questa sorta di barbara pratica per mantenere l'ordine. Non è legato alle latitudini, ma è legato alla nostra natura. Guardi, le leggo velocemente, come l'ha data Fabrizio Intonti, una lettera luterana scritta Italo Calvino da Pierpaolo Pasolini, era ottobre del 75, dopo che c'era stato il massacro del Circo liceo. Ragazzi di ottima famiglia, della specchiata borghesia romana, prendono due ragazze popolane, le portano alla loro villetta, le stuprano, le violentano e le uccidono, una ne uccidono. Anche allora, usando per supplire alla loro concreta impotenza virile degli oggetti, mi pare c'era qualcosa anche del genere. E dice: tu dici che c'è un passo nella tonia morale, della responsabilità sociale da parte della borghesia italiana alla pratica di seviziare e massacrare. Viviamo in un mondo in cui l'escalation del massacro, dell'umiliazione della persona è uno dei segni più vistosi del divenire storico. E questo avviene a tutti i livelli sociali, avviene nella indifferenza istituzionale verso certi fenomeni, avviene nella mamma che difende il figlio piezze core, avviene comunque nelle migliori scuole del nostro paese, in cui ragazzi che hanno avuto un'educazione probabilmente di stampo anglosassone, che sono stati più tempo a Londra di quanto i loro compagni siano stati nel campetto di calcio sotto casa, nonostante questo hanno il cinismo e lo sprezzante modo di infliggere umiliazioni, torture fisiche e psichiche ai loro compagni. Giuseppe, buongiorno. Sì, però, buongiorno, però, dottor Nicoletti, però penso che la scuola, intesa proprio come momento formativo di tutte le coscienze, di tutte le teste. Sì, questi avevano 24 anni, a scuola probabilmente non ci andavano più da almeno 10 anni. No, ma cosa c'entra? Io posso parlare di uno che ha 24 anni, però ha avuto anche 8 anni, 10, 12, ha avuto dei maestri, ha avuto degli esempi. Cioè, bisogna capire un momentino cosa c'è stato, ma io non voglio mica, per l'amore di Dio, giustificare, e giustifico molto meno la suocera, la nuora, o chi per lei o chi per loro. Dico semplicemente che a livello di società la scuola è fondamentale. Se qui non c'è una scuola, che sia una scuola inglese, italiana, americana, che faccia veramente un discorso di formazione diverso, insomma. Io ve la giro però in altra maniera, non voglio da qui trovare un episodio solo perché le cronache lo riverberano, che diventi paradigmatico di un malcostume sociale, ma in quante tracce della vostra memoria c'è un episodio, un incidente simile accaduto in un'officina? In quanti luoghi d'Italia c'è sempre stato il cretino che con il compressore fa lo scherzo stupido e uccide o fa danni irreversibili a un proprio compagno di lavoro o a un amico? Marco, buongiorno. Marco, il suo punto di vista. Marco. Buongiorno, sì, pronto? Ascolto. Sì, dicevo, com'è possibile che si possa concepire di colpevolizzare solo chi ha commesso l'atto e non chi era lì a vedere, a guardare e a filmare? È questo che a me sembra strano, sembra assurdo. Concordo con quello che dico io, si è complice alla stessa maniera. Ma nel modo altrettanto grave, insomma. E poi non si può dire, lo facevano per gioco, ma sono ragazzi di 24 anni, non sono dei bambini di 6 anni. A 24 anni uno che lavora in un'officina deve sapere che il compressore diventa anche un'arma letale se appoggiato a un orifizio umano. Ma anche se non lavori in officina. Grazie, a più tardi dopo le informazioni del traffico, cioè tra pochi istanti. Una vicenda dei particolari davvero raccapriccianti. Come dicevate, 4 persone sono state arrestate dai carabinieri di Montebelluna, siamo appunto in provincia di Treviso, accusate di aver sequestrato, seviziato e sottoposto alle più brutali violenze sessuali un uomo con gravi problemi psichici. La vittima, un 32enne che vive con il padre e il fratello, tutti con problemi di alcolismo a quanto pare, e stando a quanto emerso dalle indagini era stato convinto dei suoi aguzzini ad aiutarli nella ristrutturazione di una palazzina, dove poi è rimasto segregato per giorni. Possiamo appunto vedere le immagini che si riferiscono proprio agli arresti degli aguzzini, e dicevamo sottoposto a torture e a sevizie di ogni tipo, e pensate, costretto a cibarsi addirittura di escrementi di cane, giusto per darvi l'idea dello squallore, della gravità di questa terribile vicenda di cronaca. Questo solo per farvi capire che avviene a tutte le latitudini, avviene in tutte le estrazioni sociali, non è perché la vicenda è avvenuta a Pianura, che è una parte particolarmente problematica del napoletano. E quando Pierpaolo Pasolini, come mi aveva suggerito in Tonti, rispondeva a Calvino rispetto al delitto del Ciceo, gli diceva che praticamente non è vero che questo è un frutto soltanto di una borghesia marcia, di ragazzi viziati, dice, attraversa tutto il paese questo senso profondo della violenza, della sopraffazione, del desiderio di prevalere attraverso atti epici, atti eroici, tra virgolette, nulla di epico, nulla di eroico, ma la violenza di gruppo, lo stupro di gruppo verso uomo, verso donna, verso qualunque essere umano. italiano, comunque sia al senso di affermazione di una leadership. Non capisco perché un ascoltatore mi scrive: non capisco il suo buonismo, dove trova buonismo nelle mie parole? Non c'è niente di buonista, non c'è niente di assolutorio, c'è solo inquadrare il fatto in una tipologia sequenziale. Avviene da quando io ero ragazzino, che nelle officine facciano questo idiota scherzo e qualcuno ci lasci la pelle. Corrado, buongiorno. Grazie. Corrado? Ecco. Sì, spenga la radio, sennò sentiamo soltanto la mia voce. Eccolo. Allora, rapidamente, io volevo sottolineare il fatto che la cuore di mamma parla in dialetto, o meglio, non parlo italiano, ovviamente qui non mi importa che parli napoletano o bergamasco, non ha importanza, l'abbiamo visto. Chi come me ha avuto esperienza di lavoro col pubblico? Si è più volte reso conto che la difesa dell'errore che sia fatto dal proprio figlio o che sia un mancato pagamento di un servizio viene vissuto come una verità, voglio dire, ci credono davvero. La cosa terrificante è che ci credono davvero che sia stato uno scherzo, che sia un loro diritto usufruire di un servizio senza pagarlo. È una cosa che mi lascia Però tutto il guadagno in civilizzazione che siamo fatti è un'impresa dura, ardua e faticosa. L'organizzazione basica della società è fatta sulla sopraffazione. Difendo il mio clan, la mia stirpe, il mio sangue, la mia progenie contro tutto e contro tutti. Gli mangio il fegato a chi si avvicina a mio figlio. Poi noi ci siamo civilizzati, abbiamo capito che esistono anche i diritti degli altri, esistono anche le altre persone, ma è una conquista culturale questa cosa qua. Non è che è così insita. E più è basso il livello di affinamento culturale, più è logico che il cuore di mamma difende il piezzecore, ma può essere napoletana, può essere friulana, può essere sarda, può essere di qualunque regione. Anche i genitori degli assassini del Circeo difendevano i loro figli, e qualcuno l'hanno espatriato, se ne ha avuto notizia soltanto dopo morto. C'è sempre questo atteggiamento, e la cultura non significa aver studiato, avere beni d'acquisto. La cultura è qualcosa di profondo, è qualcosa che ci permette di comprendere il senso dell'epoca in cui viviamo con strumenti adeguati alla contemporaneità. In questo diventa arcaica anche una mamma laureata dei quartieri alti di Roma quando deve difendere il figlio che ha stuprato due povere popolane. Massimo, buongiorno. Pronto, buongiorno. L'ascolto. Posso parlare? Certo. Sì, non ho parole a sentire quello che ho sentito. Massimo della pena per la madre, per quello che ha detto, massimo la pena per il figlio e anche per quei due balordi. Per la madre non c'è pena, perché una madre può difendere il figlio, può anche dire il falso in tribunale per difendere il figlio. Ma gli toglierei la patria potestà per quello che ha detto, gli toglierei tutti i diritti civili, tutto, perché la cosa che ha detto, senza parole. Io sono di origine del sud, i miei sono del sud Italia, proprio del capoluogo. Questa gente qui, sinceramente, se io fossi a Napoli mi vergognerei, perché certa gente, certe cose vanno nel mondo. Lei ha detto bene, succedono in tutta Italia, in tutto il mondo, però sinceramente le cose che ho sentito non so sinceramente. Le ha dato fastidio sentirlo? Ho fatto qualcosa del genere a mio figlio, a mia figlia, vigliacco il mondo, l'ultima cosa che facevo li sterminavo sti qua. Vabbè, si mette sul loro stesso piano, li stermina. Certi episodi vengono alla superficie e gli do esistenza, perlomeno nello spazio che ho io, perché sono momenti di riflessione importanti. Io le dico, la casualità e l'ipercopertura mediatica oggi di ogni evento fa sì che oggi parliamo di questo evento, ma se avessi avuto una telecamera accesa in ogni madre di ogni assassino, stupratore, violento, bullo d'Italia negli ultimi 10 anni, avrei sentito cose molto simili, ne sono convinto. Lucilla. Buongiorno, senta, non mi scusi che chiamo, ero soltanto ecco. Mi scusi, è il suo dovere chiamare. Sono scioccata ovviamente dal fatto, perché prima di tutto sono madre di 3 figli, sono insegnante da 25 anni, insegno in un liceo, e volevo solo far presente questo signore che è intervenuto poco fa, che diceva appunto che la scuola da questo punto di vista forse dovrebbe intervenire di più. In 25 anni di insegnamento non è mai stato un anno, in tutto il Lazio tra l'altro, vagando di qua e di là, dove non abbiamo fatto corsi sul bullismo e lezioni sul bullismo. giornalismo, ho letto articoli, cioè sempre un continuo sensibilizzare. Tra l'altro nella vita quotidiana invitiamo costantemente i ragazzi a rispettare. Beh, lei difende la scuola, dice non è l'unica. La scuola funziona quando c'è una collaborazione da parte delle famiglie. Da solo la scuola non è che possa far tutto, ma ripeto, il bullismo c'entra fino a un certo punto in questo fatto. A domani.